Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi ha accusato di essere una suola insieme, non è vero? No? Sola. Ma non credo che importi. Io, guardi, se l'avesse detto qualcuno, no, ma se l'avesse detto qualunque altro lo posso pure capire, ma uno scarparo che ti fa. È un complimento, fa parte di una parte integrante integrale del suo, della scarpa. Non, no, ma non. Bene. Io non mi sono offeso per niente. Non finiscono, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, le schermaglie tra Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, e Diego Della Valle, patron di Tods, che già tempo fa a John il Can aveva detto cosa vuole parlare lui di lavoro, di contratto di lavoro, quando non ha mai lavorato in vita sua. Lo ha detto qualche giorno fa, forse anche proprio questa settimana, a proposito di Renzi, o forse era stato venerdì, dicendo avevo puntato su di lui, in realtà mi sa che in tilt, e poi non può parlare di lavoro perché non ha mai lavorato. E oggi di nuovo Marchionne risponde, perché Della Valle aveva detto che era una sola, lui che si occupa di scarpe, dice, quindi non mi offendo. Questo tanto per iniziare un po' così frizzantini, diciamo. Lo sapete, l'appuntamento è sempre la sera alle 21 fino alle 22 per avere un quadro esauriente della giornata. Di notizie ce ne sono tantissime, e fra queste c'è anche la richiesta di grazia da parte di Adriano Celentano per Fabrizio Corona. Ha scritto a Napolitano, niente proprio di meno, al Presidente della Repubblica. Voi che cosa ne pensate? Così, riassumendo nella vostra testa un po' tutta la vicenda di Fabrizio Corona, pensate che meriti effettivamente una grazia? Ne parleremo, poi ne parleremo anche con un personaggio più tardi per sapere un po' cosa ne pensa. Per voi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre opinioni, e poi naturalmente i messaggi SMS li potete scrivere al 349-238-6666. Procediamo con il racconto della giornata. Borse, Milano impicchiata, meno 4%, trascina giù l'Europa. Draghi alla riunione della BCE a Napoli dice servono nuove misure. Il crollo è stato poi conseguente. La visita di Renzi a Londra, il Presidente del Consiglio difende la Francia e replica alla Merkel, non può trattarci da studenti. Hong Kong, il capo del governo ribadisce che non si dimetterà ma è pronto a dialogare con gli studenti. La lotta all'ISIS, sì del Parlamento della Turchia all'invio di truppe in Iraq e in Siria. Ebola, sale l'allarme per il rischio, diffusione per via aerea. Negli Stati Uniti 80 persone sono entrate in contatto con un paziente malato, e poi c'è un nuovo caso alle Hawaii. Privacy, il garante dice ai call center da oggi stop alle telefonate mute. L'Opera di Roma caccia tutti, licenziati, orchestra e coro. Sovrintendente spiega scelta dura per non chiudere, da gennaio si riparte. Grazie a Fabrizio Corona, Celentano scrive a Napolitano. E poi per il calcio, dopo la Champions, serata di Europa League, Fiorentina e Napoli prima, e poi sono partite da poco Torino e Inter. Partiamo quindi da questa giornata nera, nerissima delle borse europee. L'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli dei listini continentali, ha ceduto il 2,4%, che equivale a 222 miliardi di euro bruciati in una seduta. Piazza Affari, la peggiore in Europa, con un calo del 3,76% dell'indice FTSE All Share, ha perso da sola 19 miliardi di capitalizzazione. E tra contestazione e anche leggeri scontri con la polizia, il vertice della Banca Centrale Europea si è svolto a Napoli, alla Reggia di Capodimonte, dove è intervenuto il presidente della BCE Mario Draghi, preoccupato dalle frenate della ripresa. Dopo gli annunci anti-austerity della Francia, il governatore della BCE Draghi rilancia sulle riforme strutturali ed il patto di stabilità. Deve rimanere l'ancora della fiducia nella solidità delle finanze pubbliche, dice. A Napoli il direttivo della BCE ha deciso di proseguire sulla strada dell'accomodamento della politica monetaria e di sostenere il credito all'economia reale. Non ha ritoccato i tassi, punta all'obiettivo di un'inflazione sotto il 2%, ha varato un programma di acquisti di attività cartolarizzate che include paesi come Grecia e Cipro, ma con misure che ne mitighino i rischi, e ha annunciato un nuovo programma di acquisto di obbligazioni garantite. Di fronte al crescente euroscetticismo, Draghi dice di comprenderne i motivi. Le cose non vanno bene, ma non è colpa dell'euro, anzi le riforme strutturali fuori dall'euro costerebbero di più. Infine un messaggio ai manifestanti: capisco i motivi della protesta, ma quella che va corretta è l'idea che la BCE sia all'origine o addirittura la colpevole della situazione. Laura Vigiano, Radio 24. Il sole Sole 24 Ore, Napoli. E passiamo alla visita di Matteo Renzi a Londra. Renzi, che ha preso le difese della Francia, nessuno può trattare gli altri paesi come fossero studenti, ha detto il Presidente del Consiglio al termine di un incontro col primo ministro inglese Cameron. Il Premier si riferisce agli attacchi della Germania per la decisione della Francia di sfondare il vincolo del 3% nel rapporto tra deficit e PIL. Sono dalla parte di Hollande e rispetto alla decisione di un paese libero e sovrano come la Francia, così ha detto Renzi, che poi si è soffermato anche sui temi della riforma del lavoro. Rinviate per il momento all'Aula del Senato le frizioni all'interno del Partito Democratico, le polemiche sulla riforma del lavoro si spostano alle altre forze politiche. Nuovo Centrodestra da un lato e Forza Italia dall'altro avvertono, anche se con toni diversi, che non ci sarà il loro sostegno di fronte ad una retromarcia sul superamento dell'articolo 18. L'accusa è che alla fine si arrivi ad una mezza riforma. Non è così, replica il Presidente del Consiglio Renzi. È una riforma che credo sarà molto apprezzata dagli investitori, ma vorrei che fosse apprezzata da tutti. Anche da chi finalmente capisce che non è una battaglia ideologica. Parlare di mezza riforma o di riforma ammorbidita può essere possibile soltanto da chi non ha assistito alla direzione del PD o da chi non ha visto il testo. Per evitare incidenti nel percorso parlamentare, il Premier punterebbe comunque alla fiducia da far votare già l'8 ottobre, quando lo stesso Renzi sarà a Milano per il vertice europeo sul lavoro. Il nodo è politico, conferma intanto il ministro del lavoro Poletti, per il quale il provvedimento così com'è permette di raggiungere gli obiettivi. Non la pensa così però la leader della CGIL Camusso. Dubito che il nostro ordinamento preveda che una delega permetta di fare quello che si vuole. Se il governo non ascolta, è chiaro che si arriverà allo sciopero generale, dice Landini, Fiom, Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E abbiamo parlato del vertice della BCE a Napoli. Napoli intanto perdeva il suo sindaco Luigi De Magistris, che non è più il sindaco del capoluogo campano, perché questa mattina ha ricevuto l'atto che lo sospende dalla carica di primo cittadino dopo la condanna per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Why Not. Sentiamo allora la voce di De Magistris. Io resisto, perché di questo si tratta, di resistere di fronte a un'illegalità formale di dimensioni gigantesche. Non mollo, farò il sindaco per strada, come ho detto, starò molto tra la gente, farò tanta attività politica e continuerò formalmente a fare il sindaco, perché sono sindaco formalmente, nel senso non posso esercitare le funzioni, non posso firmare, non posso partecipare alla giunta, non posso partecipare al consiglio comunale, non posso firmare nulla, ma sono sindaco sospeso, ma sempre sindaco sono. Quindi farò il sindaco, diciamo, con abiti meno formali e con gli abiti del cittadino sindaco. Mi auguro che non continuino le richieste di dimissioni, perché capisco che qualcuno magari ha tempo da perdere. Più volte me lo chiedete, più volte io dico che non mi dimetto. Vedo già i vostri messaggi sui vari temi, in particolare su Corona. Ringrazio Mirka, poi c'è Clotilde che dice: mi scusi se insisto su De Magistris, ma non le suona strano la fretta con cui è arrivata la sospensione? Alfano ha chiesto la immediata sospensione, Travaglio oggi lo chiamava Alfano Severino dalla legge Severino, che appunto ritiene che sia incandidabile per le istituzioni un cittadino che abbia avuto una condanna, in questo caso in primo grado, però diceva Travaglio Severino Alfano nel senso che con Berlusconi diceva si è comportato in un modo e con De Magistris in un altro, sono stato molto solerte. Passiamo all'estero, il Parlamento turco ha approvato la mozione del governo che apre la possibilità di inviare truppe in Iraq e in Siria per fronteggiare l'ISIS e ogni altra formazione terroristica, così affermano i media arabi. E ora Hong Kong, prime concessioni alle proteste degli studenti. All'annuncio che il governatore di Hong Kong, Sia Liung, non si dimetterà, gli studenti hanno reagito con canti e urla, ma lo slogan che imperversa davanti al palazzo del governo è «Amiamo Hong Kong». Subito dopo l'annuncio sono scoppiati alcuni leggerissimi tafferugli tra chi voleva subito occupare la strada del palazzo e chi vuole dialogare, ma alcune voci parlano soprattutto di un accordo informale tra i vicerettori delle due principali università e la polizia, che non intende a nessun costo acconsentire al blocco della strada del governo, uno dei simboli della città. Il governatore ha dichiarato che il suo numero due, Carrie Lam, ascolterà le richieste di uno dei gruppi degli studenti, solo una delle anime del movimento, ma non ha fornito una data precisa per l'incontro. E nella notte di Hong Kong, dopo la tensione, si respira l'indecisione tra chi vuole dialogare e chi intende proseguire a oltranza. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Hong Kong. Ora la cronaca, tornando in Italia, è stato rinvenuto il corpo di una donna in una cantina a Ivrea, in Piemonte. Era scomparsa da 3 mesi. Si tratta di Flerica Ninzat, una 35enne romena. A fine luglio il marito ne aveva denunciato la scomparsa, avvenuta in giugno, e da allora erano iniziate le ricerche. Un mese dopo, però, l'uomo di 43 anni si era suicidato nella sua abitazione di via Guarnotta 29, a Ivrea. Il ritrovamento del cadavere, nascosto sotto alcune assi della cantina e avvolto in sacchetti di nylon, è stato possibile grazie a 2 pastori tedeschi dell'unità cinofila di Malpensa. I cani sono specializzati nella ricerca di resti umani e tracce ematiche. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora dal Salone Nautico di Genova, che è in corso e arrivano buone notizie. Il fatturato complessivo del settore è buono. Il sentiamo intervistato da Simone Spezia, Roberto Neglia, che è coordinatore dell'Osservatorio Nautico Nazionale. Diciamo che la scorsa stagione c'è stato qualche timido segnale positivo di ritorno nei porti italiani, che si sono letteralmente svuotati dopo l'impresa Monti, me la faccia chiamare così, 40.000 barche fra italiani e stranieri fuggiti all'estero. Potrebbe sembrare un problema della nautica, è un problema di tutti noi. Secondo i calcoli dell'osservatorio, il mancato introito per l'erario di questa fuga in quella stagione lì è stato di 900 milioni, cioè più del 20% della tassa IMO prima casa. Avremmo potuto abbassare le tasse favorendo la nautica, questo riguarda senza tutti. Contare una questione di posti di lavoro, perché in realtà ogni posto barca e lo stesso turismo nautico genera naturalmente posti di lavoro. Credo che sia uno dei settori a maggior moltiplicatore dell'occupazione, secondo il Censis, non lo dice neanche l'Osservatorio Nautico, secondo il Censis ogni 3,8 barche si crea un posto di lavoro nei servizi e nella portualità, insomma, adesso collegata, quindi un volano fortissimo per l'occupazione nei territori costieri. E comincia adesso del Teatro dell'Opera di Roma. È stata decisa l'esternalizzazione dell'orchestra e del coro. Ora il Consiglio di Amministrazione avvia una procedura quindi di licenziamento collettiva. Il sovrintendente del teatro, Carlo Fuertes, parla di una scelta molto dura, sofferta, in forse la messa in scena dell'Opera Ida, che dovrebbe aprire la stagione dopo l'addio del direttore, giorni fa, del direttore d'orchestra Riccardo Muti, lo scorso 21 settembre. E come dicevo all'inizio, ho anche una notizia che riguarda Fabrizio Corona, che è stato prosciolto in appello dall'accusa di omessa dichiarazione dei redditi per la quale era stato condannato in primo grado a 1 anno di reclusione. Intanto anche Adriano Celentano, come vi dicevo, con una lettera aperta al capo dello Stato pubblicata sul suo blog, invoca la grazia per il fotografo detenuto nel carcere milanese di Opera, che dice è depresso, ha perso diversi chili. Di questo parleremo dopo, ma vedo già molti vostri messaggi, sia al 349-238-6666 e in particolare anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Passiamo al calcio. Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto legge sul contrasto alla violenza negli stadi. L'Aula ha approvato il decreto con 323 voti favorevoli, 168 invece voti contrari. Il provvedimento contiene anche norme sull'immigrazione e misure che riguardano il Ministero dell'Interno, tra cui l'avvio della sperimentazione delle pistole elettriche da parte della polizia, di cui abbiamo parlato in questi giorni con un esperto. E adesso invece esperto di calcio, Giovanni Capuano, che ci farà un ragguaglio dell'Europa League di stasera. Ciao Giovanni. Eccoci, ciao Roberta, sì, ciao. Perché è seratona oggi, 2 stanno giocando, 2 hanno già giocato e la buona notizia è che il calcio italiano continua a fare benino in Europa dopo 2 settimane fa in cui avevamo chiuso con 5 vittorie e un pareggio e nessuna sconfitta. Ieri c'è stata la doccia fredda un po' della Juventus, però martedì era andata benissimo la Roma-Manchester e questo pomeriggio, o meglio nel tardo pomeriggio, le partite si sono chiuse da circa un quarto d'ora, dobbiamo già registrare 2 vittorie in Europa League, quella del Napoli esterna contro lo Slovan Bratislava per 2-0, i gol di Hamsik nel primo tempo e di Higuain nella ripresa, Higuain che è entrato e il primo pallone che ha toccato ha fatto rete, e poi il 3-0 sempre esterno, si giocava a Borisov, della Fiorentina contro la Dinamo Minsk, i gol di Aquilani, Ilicic e Bernardeschi. Il Napoli ha punteggio pieno ed è in testa al suo girone e anche la Fiorentina ha 6 punti dopo 2 giornate e quindi 2 gironi che sono messi in discesa. Da circa 10 minuti invece sono in campo Inter e Torino. L'Inter gioca a San Siro contro una squadra azzera che ha una storia particolare perché viene da Karabag, che è una città praticamente fantasma. Karabag, insomma, è una di quelle storie che si possono raccontare a inizio stagione. Comunque il Karabag fa parte del girone dell'Inter e nella prima partita ha anche pareggiato con i francesi del Saint-Étienne, quindi non è assolutamente da prendere con sotto gamba. Leggerezza. Siamo circa l'undicesimo, 0-0, e ti dirò che proprio il Karabakh è stata la squadra che si è portata più vicina al gol. E 0-0 è anche in questo momento il risultato di Torino-Copenaghen, e fra tutte le italiane il Torino è quella che ha più bisogno di vincere, perché è l'unica che nella gara di debutto 2 settimane fa si è fermata al pareggio in Belgio contro il Bruges. Grazie Giovanni Capuano, vediamo poi più tardi se ci saranno degli esiti diversi da questi pareggi. Per il momento 0-0. Vedo molti messaggi, qualcuno lo leggo adesso poco prima della viabilità, a proposito di Corona. Rosanna dice: penso tutto il male possibile di un individuo come Corona, e di Celentano, il quale evidentemente non ha nulla di meglio da fare che pensare a queste cose, da pensare. Componga una canzone e taccia, sai quanti poveri cristi meriterebbero la grazia più di uno sbruffone come Corona, dice Rosanna. Marilena scrive: continui a cantare Adriano che è meglio, il resto non è per lui, pure quando lo fanno passare per guru, solo bassa operazione mediatica. Lorella scrive: penso che in galera ci dovrebbero esserci altre persone che fanno reati gravi, in fondo Corona non è che ha fatto granché, e allora liberiamolo e mandiamo in galera chi veramente ci deve stare, è una giustizia fasulla. Luca dice: si commenta da sola questa richiesta. Insomma, ce ne sono molti, soprattutto donne vedo intervenire per Corona, ma non soltanto. Però intanto aggiorniamoci, aggiorniamo chi viaggia tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo che ci sono molti messaggi sulla possibile grazia Corona, cioè richiesta da Adriano Celentano a Napolitano in una lettera. Per esempio Marta dice: Corona in carcere dovrebbe starci ben 9 anni per un supposto ricatto, non ha ammazzato nessuno, quello che ha coltellato per 16 volte è a casa dopo qualche mese. Certo che Celentano ha fatto bene a scrivere. Anche Virginia dice che ha conosciuto il padre di Corona, sarebbe contenta insomma della grazia. E molti altri messaggi, però adesso vi riassumo brevemente le notizie del giorno. Draghi a Napoli alla riunione della BCE, dice: la ripresa frena, pronte nuove misure, intanto la borsa crolla, ci sono momenti di tensione, ci sono stati al corteo a Napoli, allarme del Fondo Monetario Internazionale sulla ripresa. Renzi replica a Angela Merkel: non ci trattate da studenti, la Francia ha ragione, dice, Italy is back, insomma l'Italia è tornata, ora ci vuole un cambiamento. E poi ancora da Marchionne a Landini per il TFR dicono di sì, le banche useranno i fondi della BCE, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, e l'Opera di Roma che caccia tutti i licenziati, orchestra e coro, il sovrintendente Fuertes dice: una scelta dura per non chiudere, da gennaio si riparte. Poi a Hong Kong ultimatum agli studenti, andate via o pagherete, Bruxelles esorta alla moderazione. E poi abbiamo detto appunto questa notizia di Celentano che scrive a Napolitano per chiedere la grazia per Corona, e l'Europa League con la quale poi ci aggiorneremo più tardi. Ora invece parliamo della visita a Londra di Renzi, ne ha detto diverse cose, qualcosa la faremo anche sentire. E a Downing Street, la sede del primo ministro inglese, Renzi è stato accolto da David Cameron a 6 mesi esatti di distanza dal precedente incontro a Londra, e Cameron ha ribadito l'importanza delle relazioni con l'Italia, che ha definito calde e calorose. Così Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Sì, buonasera a voi. Sì, esattamente così. Il primo appuntamento di questo tour londinese di Renzi è stato appunto al 10 di Downing Street, per poi immergersi in una lunghi incontri, prima all'ambasciata italiana, poi in interviste all'Economist, al Financial Times e infine alla Guildhall, il vecchio municipio della City, un municipio che ha cominciato a operare nell'890, quindi insomma il più vecchio e anche quello che racchiude adesso la parte più ricca di questo grande hub finanziario di Londra. E in questi appuntamenti praticamente Renzi ha presentato, armato di slides, che qual era l'Italia, a che punto era l'Italia nel marzo scorso su riforme istituzionali, mercato del lavoro, giustizia e pubblica amministrazione, dove ora e dove sarà tra 6 mesi. Più politico ovviamente l'incontro con Cameron, dove si è discusso anche di terrorismo internazionale, di Libia, di Iraq e soprattutto di Europa. Mentre l'Europa nella visione di Renzi deve essere un'Europa più snella, più smart, meno tecnocratica, anche l'Europa di Cameron deve essere un'Europa che deve cambiare, deve essere più flessibile. Ma mentre Renzi vede il suo nemico nella rigidità della Merkel, in realtà Cameron pensa a un'altra cosa, pensa al flusso antieuropeista di Nigel Farage e quindi al prossimo referendum che rischia di diciamo di portare e di separare le sorti dell'Inghilterra, del Regno Unito dall'Unione Europea. Gerardo, facciamo sentire un passaggio di Renzi proprio sulla Merkel, che ha detto chiaro e tondo cosa pensa lui, insomma, dell'intervento della Merkel, dell'austerity e della richiesta della Francia di poter sforare. Sentiamo. Noi rispettiamo il limite del 3%, non tutti lo fanno, ma questo non vuol dire che sia diritto degli altri paesi di decidere per la Francia o per altre nazionalità. In altri termini, per essere più chiari, noi rispettiamo il 3%, ma rispettiamo anche le decisioni di un paese libero e amico come la Francia, e credo che nessuno abbia il diritto di trattare altri paesi con lo stile con cui si trattano gli studenti. Se la Francia ha deciso così, avranno i propri motivi, e io sto dalla parte di François Hollande e Manuel Valls. Naturalmente per l'Italia la situazione è diversa, noi rispettiamo i limiti che ci siamo dati. Quindi è stato chiaro Renzi, è stato anche chiaro Gerardo Pelosi su una cosa, sull'articolo 18 ha detto proprio, così riportano le agenzie, l'articolo 18 limita la libertà degli imprenditori, quindi forse per la prima volta ha detto in modo chiaro cos'è tutta questa battaglia sull'articolo 18, perché ha aggiunto, rappresenta l'articolo 18 una mancanza di libertà per gli imprenditori e questo è un problema. Sì, lo ha ripetuto anche la Guildhall davanti agli investitori della City. Ha parlato di frammentazione del mercato del lavoro, che ha creato in realtà diciamo categorie diverse di lavoratori. Anche questa cosa di applicarlo soltanto sopra le aziende con più di 15 dipendenti, dice, rappresenta una disparità di trattamento. E per quanto riguarda il mercato del lavoro, dice che sono più di 2100 norme in Italia che appunto il Job Act si prefigge di ridurre a non più di 55. Quindi questo è un poco quello che lui ha detto sull'articolo 18, sulla riforma del mercato del lavoro, che rappresenta un incoraggiamento anche agli investitori a venire in Italia, ad avere quindi delle norme più chiare, più trasparenti e più eque in questo settore. Bene, grazie Gerardo Pelosi in giro per il mondo e da Londra. Ciao Gerardo. Adesso invece ci trasferiamo veloci a Napoli per raggiungere Carmelo Presti Simone. Ci sei Carmelo? Eccoci qui, ciao Roberta, buonasera. Anche lì un grande evento, la riunione della Banca Centrale Europea, proprio in un momento particolare in cui il sindaco veniva sollevato dal suo incarico, no? Ci sono state anche delle proteste, non credo per il sindaco, ma contro, diciamo, i poteri forti europei. Assolutamente, è stata una giornata intensa, alle 9 600 manifestanti tra disoccupati, studenti, precari si sono radunati ai Colli Aminei, la zona alta di Napoli, il corteo di protesta contro la BCE diretto alla Reggia di Capodimonte, dove si è svolto il vertice della BCE, è diventato poi imponente, 5.000 i manifestanti che hanno raggiunto Capodimonte. Poi che cosa è successo? Noi eravamo lì, poco più su della rotonda di Capodimonte, i contestatori hanno iniziato a indossare caschi, a bardarsi, a tirare su i cappucci, a indossare anche delle maschere di pulcinella e hanno provato a forzare il blocco della polizia. Il caos è nato quando alcuni di questi contestatori hanno preso la scala dal carro alla testa della manifestazione e l'hanno collocata sul muro di cinta della Reggia di Capodimonte, provando a sistemare uno striscione contro la BCE. C'è stato il corpo a corpo con la polizia, gli idranti delle forze dell'ordine contro le bombe carta dei manifestanti, qualche contuso in modo lieve, così come lievi sono i danni ai mezzi della polizia. Una persona, un contestatore, è stato fermato, poi rilasciato, per lui solo una sanzione amministrativa. Poi il corteo si è sciolto nelle vie del centro di Napoli, all'altezza di Piazza Borsa, intorno alle 17. Adesso la situazione però è tranquilla, Carmelo, no? Se ne sono andati più o meno tutti a questo punto? Sì, assolutamente, tranquilla, si è ristabilita la situazione. C'era una certa preoccupazione per questo corteo, lo ricordiamo, i negozi nella zona di Capodimonte hanno chiuso su consiglio dei vigili urbani, era annunciata una manifestazione pacifica, lo hanno detto anche i contestatori stamattina al raduno ai Colli Aminei, pacifica fino a un certo punto, perché poi i momenti di tensione che abbiamo raccontato ci sono stati, li abbiamo registrati, e adesso però tutto si è placato, si è rientrato. Grazie Carmelo Presti Simone da Napoli, ciao Carmelo, buona continuazione. Ciao. Ancora i vostri messaggi, poi ci prendiamo una pausa, sempre sulla richiesta di grazia per Corona da parte di Adriano Celentano a Napolitano. In una lettera Gianfranco scrive: Corona, buone ragioni, poteva trovarsi sostenitori migliori. Alberto scrive: a Cabobo, vi ricordate quel immigrato, dice che ha ucciso 3 milanesi a picconate, hanno dato 20 anni, mentre lui deve scontarne 15. Poi ancora, vediamo fra i vari messaggi, Enrico che dice: sono gli altri criminali che devono stare in galera, non Corona, che invece deve uscire. Ah, non Corona uscire, cioè loro devono stare dentro, non è che lui deve uscire. Insomma, ognuno con i suoi ragionamenti, però diciamo la gran parte mi sembra non favorevole, anche se arrivano messaggi di altri ascoltatori e ascoltatrici che dicono, fanno questo paragone tra chi ha fatto cose peggiori e magari ha avuto una pena inferiore o addirittura non è neanche andato in galera. Continuate a mandare i vostri messaggi su Effetto Notte, la pagina Facebook, oppure gli sms al 349-238-6666. Parleremo di questo e anche di altre cose dopo la pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, stavo leggendo ancora i vostri tanti messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di Corona. Tra i vari che ho letto anche Floriano che scrive: credo che Corona ne abbia combinate di tutte, la pena sicuramente non sarà che quello che prescrive il codice penale, poi sicuramente avrà degli sconti. Questa della grazia chiesta da Celentano a Napolitano per Fabrizio Corona è solo una delle notizie, vi riassumo brevemente anche le altre. Borse, Milano impicchiata, meno 4%, trascina giù l'Europa, Draghi alla riunione della BCE a Napoli, dice servono nuove misure. Poi la visita di Renzi a Londra, di cui abbiamo parlato, il Presidente del Consiglio difende la Francia e replica alla Merkel, non può trattarci da studenti. A Hong Kong il capo del governo ribadisce che non si dimetterà, ma fa una prima apertura agli studenti che protestano. Lotta all'ISIS, sì del Parlamento della Turchia, all'invio di truppe in Iraq e in Siria. E poi per la privacy il garante dice ai call center, da oggi stop alle telefonate mute. Di questo parleremo poi più tardi. L'Opera di Roma che caccia tutti, licenziati, orchestra e coro. Il sovrintendente spiega una scelta dura per non chiudere, ma da gennaio si riparte. Poi per il calcio Europa League con Fiorentina e Napoli che hanno vinto nel pomeriggio nelle loro sfide, e Torino e Inter con queste squadre. Poi ci aggiorniamo più tardi. E domani è un triste anniversario, ricordate un anno fa una tragedia terribile a poca distanza dalla Sicilia, di fronte alla Sicilia, 368 vittime del naufragio di un anno fa quando un barcone carico di migranti si inabissò davanti all'isola dei Conigli. E proprio da stasera a Lampedusa sull'isola sono state organizzate numerose iniziative, e lì per noi la nostra Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buonasera Roberta, buonasera ai tuoi ascoltatori. Non so se riuscite a sentirlo in sottofondo, c'è proprio in questo momento una rappresentazione teatrale davanti al mare che inghiottì quelle 368 persone. Sì, si sente in sottofondo qualcosa, Valentina, non chiarissimo, ma si capisce, sì, che sta succedendo qualcosa. Sì, è uno degli appuntamenti del Festival Sabir, che è la lingua che si parlava nel Mediterraneo, un po' in tutti i porti, no? E quindi è un modo anche per esorcizzare in maniera teatrale, in maniera musicale, quello che è successo. Ma ci sono state diverse commemorazioni, oggi quella interreligiosa è stata la più commovente, con i sopravvissuti, con alcuni dei sopravvissuti, sono 155 le persone che sono sopravvissute, molte erano qui. Adesso in questo momento proprio all'aeroporto di Lampedusa stanno incontrando il Presidente della Camera Laura Boldrini, che è appena arrivata, e il Ministro degli Esteri Federica Mogherini. Domani presenzeranno insieme a Schulz, a Martin Schulz, il Presidente del Parlamento Europeo, a una conferenza, perché Roberta, Lampedusa è, insomma, è qui nel crocevia, no? Nel dilemma se dare un rispettoso silenzio a queste vittime e familiari che sono giunti qui e sopravvissuti, oppure cogliere questa opportunità per creare un dibattito intorno a tutto questo, anche un dibattito europeo. Mi sembra che sia questa la strada che ha intrapreso. Certo, e anche per naturalmente mantenere vivo il ricordo e mantenere viva anche la consapevolezza di quello che succede abbastanza costantemente, purtroppo. Senti Valentina, anche sei già oggi. Ecco, appunto, sai già cosa avverrà invece domani a proposito di queste manifestazioni, domani dopodomani? Sì, guarda, intanto oltre alle rappresentazioni teatrali, a questi incontri stasera, ti dico già che in mare un gruppo di pescatori, perché sono stati i primi ad avvistare i corpi l'anno scorso in mare, proprio nella notte tra il 2 e il 3, hanno deposto una corona nel posto dove c'è stato il naufragio. Domani ci sarà un flash mob alle 11 del mattino in cui 368 persone daranno vita, insomma, un nome a questi migranti che sono morti. Devi sapere che soltanto di 63 si è arrivati a stabilire nome e cognome, gli altri sono ancora dei numeri, quindi c'è stato un esame, una perizia dell'esame del DNA in questo anno, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. Oltre a questo flash mob ci sono varie un minuto di silenzio, poi ci sarà il lancio nel cielo di lanterne, rappresentare appunto ognuna di queste vittime. Per alcuni quella di domani mattina più istituzionale sarà una passerella inutile di politici, per altri, come ti dicevo, come il sindaco Giuseppe Nicolini con cui ho parlato stamattina, insomma è un modo anche per poter parlare con gli interlocutori istituzionali di un grosso problema. Adesso a fine novembre ci sarà il passaggio a Frontex Plus, no? Sì. Mare Nostrum un po' in la cui volta l'Europa dovrebbe essere un po' più coinvolta, un no? po' più protagonista, visto che noi siamo la frontiera, ma insomma riguarda tutta l'Europa. Tra l'altro molti dei sopravvissuti con cui ho fatto il viaggio oggi in aereo per puro caso sono al nord Europa, vivono in Svezia, in Norvegia, addirittura molti di loro non parlano una parola di italiano, ma hanno imparato un po' di svedese. Perché infatti molti considerano l'Italia un territorio di passaggio, no? E poi vanno soprattutto verso i paesi scandinavi, i paesi del nord. Valentina Furlanetto, intanto grazie, buona grazie continuazione a Lampedusa. Grazie. Ciao Valentina. Adesso direi che è il momento, dicevamo, l'Europa deve essere più coinvolta, parliamo di Europa. Europa 24 notte. Anche perché l'Unione dovrebbe fare la forza. Sindaci allora di tutta Europa sono insieme a Roma per la costruzione dell'agenda urbana europea, strumento parte integrante della strategia europea 2020 per rafforzare la cooperazione tra le città in vari ambiti, dalla mobilità all'ambiente, sino all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà. Quello delle città capitali infatti è un punto di vista privilegiato per far sì che uomini e donne dei paesi dell'Unione Europea possano davvero sentirsi cittadini europei. E insieme per l'agenda urbana europea è il titolo appunto dell'appuntamento promosso da Roma Capitale nell'ambito del semestre italiano di presidenza europea che si è tenuto ieri a Roma. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. Com'è bella, ma anche come sarebbe bella se ci fossero più spazi verdi, trasporti efficienti, alloggi confortevoli per tutti, opportunità di lavoro, inclusione sociale e tanto altro ancora. Obiettivi ai quali tende l'agenda urbana europea, è uno strumento divenuto parte integrante della strategia europea 2020 e insieme per l'agenda urbana europea è stato il titolo del grande raduno di tutti i sindaci europei che si è tenuto a Roma ieri, un'iniziativa nell'ambito del semestre italiano di presidenza per costruire, questo dunque l'obiettivo, una piattaforma politica di dialogo permanente tra le città e la Commissione europea. In sostanza il messaggio sintetizzato dal commissario UE per le politiche regionali Johannes Hahn è che alle città deve essere affidato un ruolo centrale perché sono il volano per uscire dalla crisi e rilanciare l'economia. Del resto basti pensare che ben 167 milioni di persone in Europa vivono in città, un terzo della popolazione. Di qui la necessità di dotarle di maggiori risorse che però dovranno essere distribuite in modo più equo, ha sottolineato il sindaco di Roma Marino, il quale ha tracciato anche le conclusioni di questo appuntamento. Prepareremo un summary report nelle prossime settimane, condiviso da tutti i sindaci delle 28 capitali europee e chiederemo un incontro di una nostra delegazione al commissario Juncker, al presidente Juncker, perché appunto ascolti questa nostra richiesta di avere una piattaforma permanente di dialogo tra le città capitali e la Commissione europea. Insomma, un sistema dove per alcuni temi ci sia una strategia bottom up, dove le istanze, i problemi, le sfide identificate identificati dai sindaci delle città capitali possono essere discussi con la Commissione prima di prendere le decisioni. E intanto Roma e Parigi hanno approfittato dell'occasione per rinnovare il loro gemellaggio risalente al lontano 1955. Con una dichiarazione congiunta, Ignazio Marino e Anne Hidalgo, primo cittadino della capitale francese, si impegnano a rafforzare i loro rapporti in diversi settori, dalla lotta ai cambiamenti climatici al ricorso alle energie rinnovabili, alla cultura, all'istruzione, allo sviluppo economico, alla mobilità. Dunque un'occasione anche per scambiare buone pratiche. Piccolo esempio lo fornisce il sindaco di Parigi Hidalgo: ci siamo ispirati a Roma, dice, per riconquistare i bordi della Senna. Prima il fiume era un'autostrada, oggi è uno spazio per passeggiare. On s'est inspiré de cette démarche de Rome, par exemple lorsque l'on a reconquis les quais de Seine. Le bord de la Seine, qui était une autoroute, est devenu aujourd'hui sur la rive gauche de la Seine à Paris un espace de promenade magnifique. C'est aussi une inspiration qui nous est venue de Rome. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso vi leggo una notizia arrivata in questi istanti a proposito di Scaroni. Paolo Scaroni si è dimesso dal consiglio di amministrazione delle Generali, delle Assicurazioni Generali. La decisione dell'ex amministratore delegato dell'ENI arriva prima dell'assemblea del 14 ottobre, che doveva decidere sul suo reintegro nel board dopo la condanna in primo grado per l'inquinamento della centrale di Porto Tolle quando Scaroni guidava l'Enel. Questa è l'ultima notizia arrivata. Ancora molti vostri messaggi su Corona. Maurino scrive, ci sono messaggi a 349-238-6666, sms oppure le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Maurino scrive: per Corona credo che conti anche la somma dei capi d'accusa per la pena ricevuta, se almeno ne sono 6 o 7 fate voi, non è che proprio non ha fatto nulla. E poi perché non restituisce i soldi che ha tolto ai ricchi, invece lui se li è pappati tutti, saluti, dice. Poi invece Enrico dice: l'Italia allo sbando, la nostra preoccupazione va a Fabrizio Corona, beati i francesi che hanno un presidente che pensa ai loro interessi e non all'Europa. Invece un altro ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice: Celentano ha forse in mente un nuovo spettacolo e già comincia a farsi pubblicità? Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E mentre proseguono le vostre riflessioni pro contro la grazia Corona richiesta da Adriano Celentano in una lettera aperta a Napolitano, vi riassumo brevissimamente le altre notizie. Con la riunione della Banca Centrale Europea a Napoli, Draghi, presidente della Banca Centrale, che dice: la ripresa frena, pronte nuove misure, la borsa intanto crolla, ci sono stati momenti di tensione con un corteo a Napoli, l'allarme intanto del Fondo Monetario Internazionale sulla ripresa. Renzi replica ad Angela Merkel: non ci trattate da studenti, a proposito di quello che Merkel aveva detto alla Francia. E replica e Renzi dice: la Francia ha ragione, Italy is back, ora ci vuole un cambiamento. Napolitano testimonierà il 28 ottobre sulla trattativa, sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, udienza al Quirinale. Rina Bagarella dicono che vogliono assistere i due boss. Poi l'Opera di Roma che caccia tutti i licenziati perché a gennaio si possa ripartire. L'ultimatum degli studenti di Hong Kong: andate via o pagherete, mentre Bruxelles esorta alla moderazione. E poi anche sale l'allarme Ebola, rischio diffusione per via aerea. Sull'Europa League ci aggiorneremo tra poco, però adesso a proposito appunto della vicenda di Corona, ho letto molti dei vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Cosa c'è ancora da dire? Mi piacerebbe sentire, adesso proviamo magari a collegarci con lui, che cosa ne pensa Don Gino Rigoldi, che è cappellano del carcere minorile del Beccaria. Vabbè, lui è tra i minori, capisce anche da dove origine un certo disagio, un certo modo anche di essere bulli, di comportarsi, ma al di là di giustificazioni, poi è un prete di strada. È uno insomma che sa fare anche delle riflessioni con grande umanità e grande intelligenza, per capire appunto cosa ne pensa, vi dicevo, di questa lettera di Adriano Celentano. Ci proviamo. Sì, pronto. Don Gino. Hey. Sono Roberta Giordano di Radio 24, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, sì. Don Gino. Sì. Senti, posso farti qualche domanda su questa richiesta di grazia che ha appena fatto Celentano sul suo blog per Corona, per Fabrizio Corona? Sì. Ti leggo brevemente un po' la lettera. Sì. Celentano, è una lettera aperta questa, a Napolitano, il Presidente quindi della Repubblica, dove dice: caro Presidente, mi scusi se con tutti i grattacapi che immagino lei abbia, anch'io mi accodo con una richiesta di grazia per Fabrizio Corona. Sappiamo che Fabrizio Corona è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 15 anni per vari reati, adesso non stiamo qui a elencarli, insomma, sicuramente non uno stinco di santo, però dice Celentano, pensi, scrive, che io non l'ho mai conosciuto, Corona, ma ho seguito le sue vicissitudini attraverso i giornali e la televisione. Ogni volta quando lo vedevo, sentivo parlare, avvertivo come un qualcosa che spaccava in parti uguali due sentimenti fra di loro contrastanti. Da un lato, dice Celentano, mi irritava la sua spavalderia nell'ostentare tanta sicurezza, eccetera, eccetera. Dall'altro, un senso di profonda tenerezza, come chi è bisognoso d'affetto improvvisamente si rendesse conto di quanto grande fosse il sacrificio che lo attendeva per aver rincorso una ribalta attraverso il gioco di una carta sbagliata. Capisco, dice Celentano, che il giudice applichi la legge, ma ciò che non capisco è perché la applica quando vuole lui. Lei, signor Presidente, lo sa meglio di me. I criminali veri sono tanti e non si contano quelli che in galera passano molti meno giorni di quanti ne ha già passati l'esuberante fotografo. Che ne pensi, Don Gino, tu di tutta questa faccenda? Beh, intanto non è che se uno va in galera perché gli altri non vanno in galera, insomma, no, che quindi per fare i confronti è sempre, so anch'io che i delinquenti veri sono fuori e invece quelli che rubano dal supermercato sono dentro, però quello lì non è un motivo. Io credo che Corona, con tutto questo suo cinema che ha fatto, ecco, lì uno può essere indispettirsi, però non vuol mica dire cattiveria, insomma, vuol dire esibizionismo, vuol dire narcisismo, vuol dire un qualche motivo, perché poi uno per affermarsi in maniera così clamorosa deve avere qualche motivo, no? Cioè, voglio dire che tante persone non hanno bisogno di darsi, far clamore intorno a quello che sono. Chi ha bisogno vuol dire che forse c'è qualche dubbio, ma di non essere così riconosciuto per quello che vorrebbe essere o che penso di valere. Dopodiché i reati sono reati, io spero che ci siano almeno due cose, che ci sia un pentimento vero e qualche forma di risarcimento anche per chi è stato danneggiato, perché anche quello è un dovere, ecco. Non deve tornare sotto il Presidente della Repubblica o il Padre Eterno perché si confessa, ma anche la persona offesa deve essere in qualche maniera riconosciuta e poi eventualmente risarcita. E poi comunque il carcere, la gabbia lì non fa bene a nessuno, insomma è una punizione sterile che porta soltanto malattie, incattivimento e oppure pure depressione. Quindi se venisse fuori un gesto di umanità, visto che è stato fatto un grosso gesto di umanità, lo svuoto a carcere, ha messo fuori dal carcere tantissime persone che avevano commesso dei reati, no? Infatti. E quello in aggiunta, io direi che potremmo anche essere contenti, insomma. Senti, Don Gino, ma invece affidarlo, come ha chiesto qualcuno, ai servizi sociali, fagli fare qualcosa di utile, tu cosa proporresti, per esempio? Quello si deve fare sempre, quella roba lì, insomma. Sai, ci sono delle forme risarcitorie dirette, cioè uno, io ti ho portato via una roba, ti do i soldi, non so, ti do i soldi per le estorsioni, per esempio, Poi c'è un'offesa sociale che richiede un risarcimento di tipo sociale, che poi sia la cura degli anziani, la tutela di un parco, l'andare a servire a mensa in una mensa per i poveri, quella roba lì mi pare che sia una forma che fa bene a chi riceve un beneficio, ma fa bene anche a chi la fa, perché impara a vedere il mondo anche da un altro punto di vista, impara di essere capace anche lui di far sorridere un po' qualcuno che ha pochi motivi per sorridere, socialmente, ma poi anche dal punto di vista della crescita della persona, secondo me si è fatto bene, si capisce, non c'è un'improvvisazione oppure qualche cinema sotto i flash delle telecamere della televisione, ma se è proprio un gesto così, direi che è dovuto e fa bene da entrambe le parti. Ti viene, per chiudere, un'idea particolare per lui, proprio in modo specifico, Don Gino? No, idea particolare, bisogna stare un po' anche attenti, perché sì, qualche volta, per esempio, quando si vuole castigare un ragazzo che sporca a scuola, per dire, no? Allora per una settimana sei lì a pulire il muro che hai sporcato. Con tutti i suoi compagni che lo prendono in giro. Allora umiliare un adolescente non va mai bene, oppure non so, vai a fare un ricordo per anziani a fare servizi, già gli anziani già sono lì a fare negli istituti, dove per quanto stiano bene comunque sono sempre fuori casa loro. Se li affliggi anche con una presenza di uno che deve fare quella roba lì che non gli piace neanche un po', ma, no, bisogna che sia qualcosa che magari sia un po' congeniale con lui, che sia di effettivo servizio sociale, dove magari possa mettere in campo anche le sue capacità di fotografo, perché no? Ma perché insegna fotografia in un carcere, perché va dai disabili e gli aiuta a darsi un'immagine più adeguata, quelle robe lì, insomma, no? Don Gino Rigoldi, vediamo insomma se le tue proposte vengono accolte al posto della grazia, se proprio non è possibile effettivamente. E vediamo un po', va bene? Vediamo, grazie Gino, Don Gino. Ciao, ciao, un abbraccio. E siamo all'ultimo argomento adesso con Giuseppe Busia, segretario generale del Garante della Privacy. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao, buonasera. Da oggi dovete sapere che i call center dovranno rispettare le regole fissate dal Garante della Privacy, per l'appunto, per combattere il fenomeno delle cosiddette telefonate mute, una forma di grave disturbo agli utenti. Cosa sono, Giuseppe, queste telefonate mute e che cos'è questa nuova regola? Beh, sono le telefonate che purtroppo capita spesso di ricevere, per cui si alza la cornetta, non si sente nessuno dietro la cornetta e spesso, soprattutto le persone che vivono sole, magari gli anziani, si preoccupano anche molto. Molte volte noi abbiamo scoperto sono i call center che, per non usare al massimo tutti gli operatori, fanno partire più chiamate di quanti siano gli operatori, per cui alcuni operatori non fanno in tempo a prendere la chiamata che è già partita e diciamo il cittadino si preoccupa di ricevere queste telefonate. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo approvato un provvedimento che prevede non l'esclusione di queste telefonate, ma almeno una limitazione molto forte, dicendo ad esempio che non possono essere più di 3 ogni 100 telefonate che partono, che non possono durare più di 3 secondi in modo che ci sia l'abbattimento, e poi anche un'accortezza: ci deve essere un comfort noise, si chiama, si deve sentire sullo sfondo un rumore di ufficio, si deve capire che una musichetta, center, qualcosa per far capire che non, sì, non c'è uno stalker dall'altra parte o qualche maniaco, no? Esattamente, senso. Quindi eliminare questo effetto di paura, di trauma, di incertezza che danno, perché appunto la gravità di questo è che non solo sono telefonate moleste, magari in ore inopportune, ma poi hanno questo elemento di inquinamento. E altra cosa, se si riceve una telefonata all'interno della stessa campagna, questo numero non può essere ripetuto se non prima di una settimana. Noi abbiamo avuto delle persone che lamentavano di averle ricevute molto rapidamente, cioè una serie di telefonate anche lo stesso giorno. Ci deve essere almeno una telefonata a almeno una settimana di tempo, e poi deve, in questa chiamata che eventualmente si riceve, essere collegato direttamente un operatore. Se non si rispetta questo provvedimento che è stato pubblicato in Gazzetta, gli operatori hanno avuto 6 mesi di tempo per adattarsi, ci sono delle sanzioni anche molto elevate. Come dicevo, non è la soluzione, è una forte limitazione nella realtà, e quello che poi serve naturalmente, come sempre diciamo, è la consapevolezza dei cittadini e dei loro diritti, che possono, lo ricordiamo, iscriversi al registro delle opposizioni e evitare di ricevere del tutto, quindi cancellare il loro numero dalle liste che gli operatori prendono per fare pubblicità, e molto anche consapevolezza degli operatori che, se violano queste regole, se disturbano i cittadini, ottengono l'effetto contrario rispetto a quanto vogliono. Mi raccomando, Giuseppe Musia, vigilate come Garante della Privacy, poi grazie, ci riaggiorniamo su questa cosa. Grazie Giuseppe, noi ci aggiorniamo tra pochissimo.